Maria, la nostra storia d'amore. Autore Andrea Mardegan, acquerelli di Anna Maria Trevisan, edizioni Paoline. Forse sei il primo che ha avuto l'idea di scrivere una cosa del genere, eh? E sicuramente ti è stata ispirata, oltre che dallo Spirito Santo, naturalmente, dal tuo fondatore, che si chiama Giuseppe Maria, vero? Si chiama Giuseppe Maria, e poi aveva questa, lui sempre ci diceva, San José Maria, lo diciamo in spagnolo, lui sempre ci diceva, non separate mai Giuseppe da Maria, no? Quindi anche lui aveva poi unito i suoi due nomi, si firmava tutto attaccato, no? José Maria, con questa idea che bisognava sempre tenerli presenti anche nella nostra preghiera, certo, insieme, no? Come sposi che sono. E così adesso siamo molto contenti anche di potersi sempre citare nelle preghiere eucaristiche della messa. Certo, bravo. Ecco, perché Papa Francesco ci ha detto, no, ma non solo nel canone romano, ma anche nelle altre preghiere, sempre dopo Maria, e dire San Giuseppe suo sposo, no? Quindi questa è proprio una cosa di questi anni, no? È recente questa introduzione di Giuseppe nella messa, in ogni preghiera eucaristica. Certo, questa volta obbligatorio, Sì, esattamente, non è facoltativo. No, è molto bello che siamo, quindi anche la Chiesa cresce nella consapevolezza che Giuseppe è accanto a Maria come sposo a lungo, e quindi è bello che nella devozione, anche nella preghiera, li teniamo vicini. Ha un ruolo fondamentale, secondo solo al ruolo di Maria. Di Maria, esattamente, proprio così. Un ruolo fondamentale, quindi anche delle grazie da parte di Dio molto speciali, molto grandi, per poter essere colui che accanto a Maria la custodisce come sposo, e poi fa da padre al Verbo incarnato di Dio, a Gesù, il Figlio di Dio. Certo, allora Don Andrea, siamo arrivati a pagina 65, sì, sesto capitolo, che si intitola La festa di nozze. A te la parola. Bene, allora io come sempre leggo un po' il libro e poi faccio qualche commento. Questo capitolo, il sesto capitolo, si centra sulle nozze di Giuseppe e di Maria, che noi siamo abituati a considerare soprattutto dal punto di vista delle immagini sacre, no? Delle immagini sacre, e poi ho scoperto che c'è una memoria, anche se non è molto vissuta, perlomeno che è il 23 di gennaio, no? Quella memoria del matrimonio di Maria e di Giuseppe, e però noi abbiamo questi famosi quadri, no? Pensiamo a Raffaello, ma insomma tanti autori. Io recentemente ho presentato questo libro facendo delle letture e anche delle musiche, poi dei commenti, nella santuario di San Giuseppe a Milano, che è una chiesa che sta dietro la Scala, in via Giuseppe Verdi, del 600, e in effetti lì ho scelto questo come primo brano perché c'è un bellissimo quadro delle nozze di Giuseppe e di Maria. Allora, il primo capitoletto, no, sempre ci sono Giuseppe e Maria che si alternano nel raccontare la loro storia, si intitola Il matrimonio con un figlio in arrivo. È Giuseppe che racconta, ecco, come si avvicina al matrimonio e quello che succede. I nostri genitori si conoscevano e avevano già stipulato tutti i preliminari del nostro contratto di matrimonio. Era passato quasi un anno dal fidanzamento, furono tutti felici di sapere che avevamo deciso con Maria di anticipare un po' la festa di nozze. Avevamo convenuto di non manifestare nessun aspetto del nostro mistero. E quindi, diciamo, questa Giuseppe e Maria mantengono la segretezza comprensibile su questo grande mistero che li ha coinvolti. Era evidente per tutti che il figlio che lei aspettava fosse il nostro figlio. Come si diceva allora nella nostra cultura, un figlio che io generavo da lei. Maria sapeva che questo mi imbarazzava, ma chiedevamo a Dio il dono del riserbo e della naturalezza. Ecco, io in qualche modo cerco di entrare un po' nella vita interiore di Giuseppe e mi immagino il suo imbarazzo, perché quel figlio di cui, che tutti pensano che sia suo figlio, è invece figlio di Dio, quindi lui penso che abbia vissuto una fatica, anche sempre aiutato tanto da Dio e da Maria, nel riuscire a stare appunto in questo ruolo, pur sapendo che quello che gli chiedeva il Signore era una cosa grandissima e di cui lui non aveva le capacità umane, no? Già il viaggiare da sola fu una originalità coraggiosa da parte di Maria. Adesso il matrimonio con un figlio in arrivo, circostanza che pur non essendo rara non era ben vista, ecco, quindi anche Maria ha, mi immagino, no, insomma, ecco, un po' questi sguardi un po' critici da parte delle persone del paese. Maria e io ci rendemmo conto che la sua gravidanza, questo invece è il volto positivo, di provvidenza, era per noi un grande aiuto proprio per nascondere il nostro proposito di verginità. Allora infatti c'era la consuetudine che gli amici dello sposo stessero in attesa del primo rapporto coniugale, che avveniva la sera del primo giorno della settimana di festa nella casa dello sposo, il quale usciva dalla stanza nuziale per dare testimonianza di aver trovato vergine la moglie. In caso contrario avrebbe potuto denunciarla e questo poteva comportare la lapidazione. Noi potremmo evitare facilmente e senza spiegazioni quell'orribile abitudine. La mia sensibilità mi portava a detestare quelle consuetudini, ma non era semplice andare in controcorrente a quell'epoca e in una società così fortemente legata alle tradizioni. Con Maria, negli anni a venire, avremmo parlato spesso in famiglia, con Gesù bambino e adolescente, della condizione della donna nel nostro tempo. Lui ci guardava con quegli occhi profondissimi e a volte aggiungeva parole di infinita sapienza. Ci riempivamo della speranza che da grande, quando si fosse manifestato, avrebbe fatto molto per cambiare le storture dovute al peccato degli uomini. Salverà il suo popolo dai peccati, mi aveva detto l'angelo. Ci sembrava che quelle consuetudini contraddicessero la grande dignità che Dio aveva dato alla donna, creandola come ultima creatura, la più perfetta, dalla costola di Adamo. E fermandosi poi a contemplare lei e lui, ugualmente splendidi sotto i suoi occhi, nel settimo giorno della creazione. Ecco, io mi ricordo quando nel rileggere il libro, questo libro che ho scritto, mi vengono in mente tante cose sentite, conosciute lungo la vita. Qualche libro l'ho citato in una bibliografia finale, ma proprio gli ultimi che ho letto o che ho ricordato nel leggere questo libro, ma nel rileggere mi tornano in mente alcune cose. Per esempio, in questo momento mi torna in mente che ascoltai una conferenza di Wanda Poltaska, quella psichiatra molto amica di Giovanni Paolo II, che poi ha scritto un diario di un'amicizia, no? Quella che è stata la sua amicizia con il sacerdote Don Carlo Wojtyła, poi vescovo, poi papa. E lei, che era una psichiatra che era stata nei campi di concentramento, in questa lezione, mi ricordo, fu una lezione proprio sulla donna, della Bibbia e della visione cristiana della vita. Lei disse questa cosa, no? La donna è l'ultima creatura, no, da parte di Dio, e quindi è la più perfetta, quindi è un po' il suo capolavoro. È un concetto che mi è piaciuto sempre tantissimo e che spesso ho citato. Il vertice della creazione. È il vertice della creazione, esattamente, no? Così come anche sempre, ricordando Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, quando dico questa cosa che Dio si è fermato a contemplare il settimo giorno l'uomo e la donna, e questo è un concetto che io colsi proprio dai suoi insegnamenti, soprattutto in quel scritto che si chiamava Dies Domini, dal giorno del Signore, che era un po' sulla domenica, sul valore della domenica, della festa del giorno del Signore, ma dal punto di vista biblico mi colpì questa sottolineatura di Dio che il settimo giorno, dopo aver fatto bene tutte le cose, soprattutto l'uomo e la donna, si ferma a contemplarli, no? Mi piacque tantissimo, un po' come una preghiera che è anche la contemplazione da parte di Dio del lavoro che ha fatto, no? La contemplazione dell'uomo e della donna, noi dobbiamo sempre sentirci così contemplati da Dio che è nostro Padre, che ci ama infinitamente, che ci contempla come la sua creatura più perfetta, no? Un po' tutti quanti, anche, diciamo così, pur comprendendo i nostri difetti, i nostri errori, un Signore che è Padre, ci guarda sempre con questo affetto uguale a quello che ebbe, quello sguardo del settimo giorno, cioè è un po' come se il suo riposo sia il contemplarci, no? E mi piace molto questo pensiero, quindi infatti si vede che lo ripeto spesso. Alla donna era addossata, dice Giuseppe, in modo eccessivo la responsabilità del peccato originale, ma questo è un po' una parte del maschilismo di allora, no? Che si dava ad Eva, cioè tutto il peccato di tutta la responsabilità, la colpa, il peccato originale, quando invece è vero che insomma, è stata Eva a suggerire ad Adamo di fare quella trasgressione, ma prima lei ha ascoltato la voce del serpente. Insomma, in ogni caso la responsabilità poi è sempre personale, sia di lei che di lui, e quindi è giusto che ciascuno, ecco, che ci teniamo in modo uguale, no, la responsabilità anche di quel primo peccato. Mi rendo conto che ero facilitato a ritenere Maria infinitamente superiore a me, dice Giuseppe, le conoscevo i doni e scudini, custodivo nel segreto la sua grandezza, ma la sua vicinanza mi faceva capire che grazie al figlio che portava in grembo sarebbe stato chiesto a tutti gli uomini di aiutare le donne in ogni tempo a sentirsi guardate con lo sguardo originario di Dio su di loro. Mi piace molto questo pensiero, cioè indubbiamente noi dobbiamo pensare che Giuseppe ha una responsabilità grandissima, e a volte un po' lo schiaccia questa responsabilità, poi c'ha il cambio aiuto di Dio e poi l'aiuto di Maria, però è anche vero che ha un privilegio straordinario di essere lo sposo della donna più perfetta che è uscita dalle mani di Dio, e anche quella che non ha peccato originale, quindi ha una santità meravigliosa e piena di grazia. Quindi in questo senso Giuseppe ha questo privilegio e quindi è facilitato a vedere nella donna, proprio la donna in Maria, quella che sta nel pensiero originario di Dio e che Maria ripropone, no? Dopo la caduta di Eva, che quindi ha un po' con il peccato obnubilato, un po' oscurato la bellezza grandiosa che era come creatura di Dio. E quindi Giuseppe è facilitato a vedere la grandezza della donna, la bellezza della donna, e quella è la grandiosità del suo ruolo nella vita umana, no? E anche del suo ruolo a favore dello sposo e poi a favore dei figli. E lui ha questo pensiero, secondo la mia immaginazione di preghiera, che pensa, ecco, proprio la maternità divina di Maria aiuterà nel futuro, no, tutti gli uomini a guardare la donna in un modo diverso, in un modo più grande. E questo possiamo dire che pur con le fatiche, con i difetti, i peccati, è avvenuto nella storia della Chiesa in questi 2000 anni e dovrà avvenire sempre di più, che la Chiesa è stata portata dallo Spirito Santo e anche dall'aiuto di Maria e di Giuseppe a vedere la donna in un modo, ecco, in un modo nuovo, no? Proprio pensando a Giovanni Paolo II, quella mulier dignità, la dignità, la grande dignità della donna. E Giuseppe dice, anche per questo non perdevo occasione per magnificarla amici, parenti e conoscenti. Questo è un ruolo che tanto sanno fare anche gli sposi cristiani, io vi incoraggio a farlo sempre, no? A parlare molto bene, con grande stima, con grande affetto della propria moglie. Questa è una cosa bellissima che anche fa molto bene ai figli, no? Vedere reciprocamente anche, no? Vedere come il papà ama la mamma e come la mamma ama il papà. Ma adesso c'è la Madonna che parla. La Madonna dice, lui era custodia della mia vita. La festa di nozze iniziò al mattino presto nella casa di mio padre. I miei parenti mi vestirono con l'abito nuziale che avevo intessuto io, mi coprirono il volto con un velo che nascondeva anche i capelli, le mie amiche mi misero attorno ai fianchi una cintura. Quella cintura di cui Geremia dice, dimentica forse una vergine i suoi ornamenti, una sposa la sua cintura, Geremia 2,32, e che lo sposo scioglie solo la sera del primo giorno di festa, la cintura che simboleggia la sposa come ornamento dell'uomo. Ero felice di essere considerata dal mondo ornamento della vita di Giuseppe, ma sapevo che lui era custodia della mia vita, lui era la vera cintura del mio grembo, gravido del figlio di Dio, scelto da Dio per custodire lui e me. Giuseppe si dirigeva verso la casa di suo padre, accompagnato dagli amici che portavano torce per illuminare la notte. Io andavo verso la sua casa accompagnata dalle damigelle d'onore, custodi della mia bellezza, e dovevo intonare canti di lamentazione per il dispiacere di abbandonare la mia famiglia. Avevano una ragione questi canti, che in un mondo nel quale la donna non aveva quasi alcun diritto e poteva essere considerata come un oggetto, utile solo a dare figli all'uomo e non di rado maltrattata. Nel mio caso ero solo felice di poter finalmente stare nella casa di Giuseppe, con Giuseppe, condividere la nostra vita e i nostri sogni. Ero molto fortunata tra le donne. Arrivata nella casa dello sposo, il mio padre Gioacchino mi benedisse con 7 benedizioni, cioè con la pienezza delle benedizioni. In verità anche lui era un po' imbarazzato nel pronunciarlo perché avevano un forte riferimento alla fecondità. Comunque per mio padre, il quale non sapeva nulla del mistero, il fatto che fossi incinta era fonte di serenità, come se avessi abbandonato il proposito iniziale di verginità che i miei non capivano. Mia madre Anna era felice, ma a tratti sembrava assente. Dopo la benedizione di mio padre, Giuseppe pronunciò con commozione le parole: «Ecco, ora tu sei santificata per me, secondo la religione di Mosè e di Israele». Mi avrebbe quindi donato un anello infilandomelo al dito. A Giuseppe tremavano le mani perché quello era un momento simbolico molto forte del matrimonio. Giuseppe mi guardò e si perse un po' nel mio sguardo, si soffermò e tradì ancora un po' di timore per ciò che stava accadendo. Allora io, senza parlare, con il cuore e lo sguardo, gli dissi: «Amore, fai anche tu parte del mistero che ho dentro». E Giuseppe capì e fece di sì con il capo, anche lui senza dire niente, ma con gli occhi che prima turbati ora rivelavano una gioia senza fine, e riuscì a infilarmi l'anello al dito. Cominciò la festa, che durò 7 giorni. La sera del primo giorno, per la prima volta entrammo nella camera degli sposi e dormimmo vicini. Giuseppe era molto emozionato e non riusciva ad addormentarsi. Allora mi avvicinai e mi sussurrai all'orecchio: «Adesso che hai detto sì a me e a mio figlio, posso confidarmi più profondamente, posso fare che entrai ancora di più nel mio cuore di carne. Ricordi quel giorno di marzo che ha cambiato la nostra vita? Mi trovavo nella casa di mio padre, ero seduta e stavo intessendo l'abito per le nostre nozze. Quando si fece presente l'angelo ebbi un sussulto, ma quando lui mi disse: lo Spirito Santo scenderà su di te, avvenne in me come un abbraccio di fecondità nel mio grembo. Senti l'amore che mi prendeva dentro, non riesco a descriverti che cosa significhi essere abbracciato nelle viscere. È come l'amore che ti tocca il cuore, e in quel momento credetti per amore. Solo l'amore avrebbe potuto agire così. Elisabetta mi diceva beata perché avevo creduto. Io direi quasi che ho creduto grazie alla beatitudine che l'amore mi ha dato. Non penso che sia stato per quello che vidi o per le parole che udii, ma per l'esperienza d'amore che feci. Dio mi prese completamente in sé. Prese tutta me stessa, non solo la mia carne. Fu toccata con immediatezza da Dio che è amore. E in lui, e in quel momento, intuì di non poter avere spazio per nessun altro amore umano. Ero tutta sua, ero tutta dell'amore. Anche per questo ritenni utile partire, andare da Elisabetta, per sperimentare come pensavo a te, Giuseppe, in quella lontananza. E fu l'amore stesso a farmi capire che poteva vivificare qualsiasi altro amore umano nella mia vita. Così ora, quell'amore a cui mi sono donata, mi ridona un amore indicibile per te, mio sposo, e un desiderio di donartelo continuamente, ogni giorno, di fartene sperimentare la gioia. Giuseppe fu felice di quella confidenza, e le mie parole lo rasserenarono, lo rassicurarono sull'essere amato, sulla non contraddittorietà di quei due grandi amori della mia vita. Si sentì a me più vicino, anche se allo stesso tempo vedeva la distanza tra i miei e i suoi doni. Ecco, a questo punto qui si conclude questo capitolo un po' più breve, no? Che narra un po' questo grande incidente, no? Nella vita di Giuseppe e di Maria, il loro sposalizio con tutta l'emozione che porta con sé. Questa ultima parte in cui Maria fa una ulteriore confidenza a Giuseppe a me piace molto perché mi piace pensare che il parlarsi degli sposi, no? il confidarsi, è una parte molto importante proprio del loro amore. No? E, io ricordo, non so se ho qualche minuto ancora, che sì, sì. Una cosa che mi colpì molto, e questo fa parte della cultura pagana ancora, nell'Odissea, no? Quando io ogni tanto lo racconto agli sposi che mi aiutano, quando c'è il riconoscimento da parte di Penelope dello sposo Ulisse, quando l'Odissea è un grande, e può essere anche letto come una grande storia di un amore sponsale con un'area che si congiunge dopo 20 anni di avventure e di distanza, no? Quando lo riconosce, poi lo mette alla prova e dice alla nutrice: portateli qui il suo letto, non sono ancora sicuro che lui sia proprio Ulisse, no? Perché tanti erano tornati e avevano fatto dire che erano Ulisse, ma non era vero. Invece lei l'ha riconosciuto da una cicatrice. E Ulisse, però questa è l'ultima prova, Ulisse dice: no, Penelope, tu non puoi portare qui il nostro letto, perché il nostro letto è inamovibile, l'ho costruito io proprio scavando in un grande albero e ho scavato il nostro letto con i galli di questo albero, e quindi è molto radicato, non si può spostare, e attorno a questo albero noi abbiamo fatto costruire la nostra stanza nuziale che nessuno ha mai visto, perché quello era un segreto tra di loro, no? Nessuno conosceva questo segreto, mi piace pensare a questa immagine che l'amore coniugale è il fondamento della famiglia, il fondamento della casa, e in questo modo questo grande autore del passato, quella notte quando Penelope finalmente dice: Presidente, sei tu il mio sposo, questa è l'ultima prova, solo noi due conoscevamo questo segreto, dormono insieme, però prima di, dopo tanti anni di godere dell'amore coniugale, lui dice, è molto bello che Omero dica che in quel racconto godono quasi come nell'amore coniugale, cioè il raccontare di sé è una cosa molto importante. Forse, ecco, le donne sono più abituate al racconto e anche a tenere memoria nel racconto, gli uomini a volte fanno un po' di fatica, però io mi incoraggio, ecco, mi sposi a raccontare di sé, perché è un po' come mettere nel cuore della sposa un seme fecondo che dà molto frutto, no? Un po' come nell'amore coniugale il seme dà frutto nei figli, ecco, così il raccontare di sé è un modo di donare se stessi, è un modo di donarsi, no? Così come due sposi si donano nel matrimonio. E in questo senso, ecco, mi piace vedere che in quella sera invece è Maria che può essersi donata una sposa Giuseppe, anche se sappiamo un matrimonio molto speciale, però dona se stessa raccontando qualcosa di sé, qualcosa di molto intimo a Giuseppe, e Giuseppe ne fa tesoro, e questo mi aiuta molto. Bellissimo. Ecco. Hai intuito molto bene. Allora, una bella benedizione su tutti gli ascoltatori, specialmente sul sottoscritto che dopodomani compie 50 anni di sacerdozio. Benissimo, Valentino, con molto piacere. Quindi, per l'intercessione di Maria e di Giuseppe, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discende su di te, sul tuo sacerdozio così bello e fecondo, su tutti gli ascoltatori di Radio Maria.